finché tu ti senti fuori posto, è arrivato il tuo momento. I fuori posto! I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno ai nostri innumerevoli ascoltatori, sempre di più, caro Umberto. Sempre di più, per fortuna grande successo, no, dei fuori posto. Mi ha chiamato un giornalista della BBC. Addirittura? Sì, vuole farci un'intervista in esclusiva, che diciamo? Diciamo di no. Ah, sì. Ma no, perché dobbiamo svenderci così alla BBC? No, però insomma, canale internazionale. Vediamo, ci pensiamo. Tanto oggi abbiamo anche un problema di ordine pubblico qui a Via Monterosa, Umberto. Ah, ci sono le fan? Ci sono le fan che ci aspettano, sono tantissime. Fan. Ma non c'è lei, però. Lo so, ci sono tanti fan, ma non c'è poi lei. Poi gira che ti rigira, purtroppo si cade sempre in questo argomento. In questo che... D'altronde, partire con Fuori Amore ormai è diventato un grande classico, sì, no? Ormai è un classico. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Io mi prendo sempre qualche secondo di pausa, perché in questi secondi che ci regala la regia, no? Io mi emoziono. Tu ti emozioni? Mi emoziono nonostante ho di fronte te. Pensa come sto messo. Lo so, questo fa capire quanto sei innamorato, ma mi emoziono anch'io. Pensa che non vivo questa storia direttamente. Però, come al solito, caro Umberto, tutti quelli che soffrono per amore come te, poi alla fine acchiappano, incuriosiscono le donne. Ma questo non lo so. Intanto io, ritornando a questo della BBC, che gli devo dire? Di no? Per ora dici no. Per ora no, quindi per ora è un no. Per ora no, per ora. No, perché per ora, ho capito qual è la tua strategia. Tu ti vuoi vendicare, no? Perché quando siamo partiti, no, nessuno non ci scommetteva. Filava, bravo, non ci filava nessuno, adesso è facile. Adesso è facile, no? Noi chiamavamo i cantanti, gli artisti, gli ospiti, esatto, tutti a dire esatto. ma chi siete? No. Ecco, non ci disturbate mentre lavoriamo, per sì, cortesia. Sì, ci attaccavano il telefono. Invece adesso mi dice Andrea dalla regia che c'è Eros Ramazzotti che vorrebbe intervenire qui ai fuori posto nel nostro programma. Ah, adesso Eros Ramazzotti, ora? Sì, che faccia? Ci abbiamo tempo? Ma io non so quanto possa interessare i nostri ascoltatori. Eros è sempre Eros. Capito, ma ci siamo che parliamo, che gli frega la gente di Eros Ramazzotti. No, ma Eros però insomma ha fatto canzoni di grandissimo successo, canzoni d'amore, insomma. Facciamo una cosa, se abbiamo un fatto buco... un sacco di cose, ha parlato d'amore, poi ha parlato di amore anche. Di amore, poi, per esempio, comunque. Poi di amore, cioè insomma, comunque è bravo. Cioè, è bravino, quindi, io direi una cosa, Umberto, se è abbiamo un buco... Eros è bravissimo. Ma io dico una cosa, se abbiamo bisogno, se abbiamo un buco, vabbè, non sappiamo di che parlare... Ma magari ci fa crescere gli ascolti, no? Ma secondo me no. Tu non, dici? Non la vedo così. Ma chi glielo dice no a Eros Ramazzotti? Questo vuole entrare in onda? Al nostro grande Andrea, che dall'altra parte del vetro ci segue, quindi ci sarà... Andrea, dite no. Dite che non ci siamo. Per adesso non c'è spazio, però magari nei prossimi giorni, se c'è un buco... faremo intervenire, magari anche lui si è sentito fuori posto, Eros, no? Magari, ecco, per questo ha chiamato probabilmente, però comunque... Comunque, io vorrei ritornare al momento fuori amore, per il momento è no a Eros, però insomma... Eros richiama, per ora no. No, ti dicevo, no, che chi, l'uomo che soffre d'amore, no? Tipo me. Tipo te, appunto, agli occhi delle donne diventa un po' un romanticone, un sensibilone, quindi desta interesse il personaggio che soffre d'amore, tant'è che ma io non Gianna... so persona... cioè, la cosa bella che pure, scusa, apro e chiudo parentesi, no? Che molti pensano e dicono, ah vabbè, ma tu giochi... No, cioè, la verità è che io soffro per davvero. No, questo è vero. Umberto, per altri motivi, è un po' un cazzaro. Però che lui soffra d'amore, questo è certo, perché ogni volta che pensa alla sua ex, lancia questo famoso bacio al cielo. Anzi, approfitto, ecco, apritemi la cabina regia. Mua. Ecco, è sempre molto commovente. E lui soffre sul serio d'amore. Ecco, però dicevo, il sofferente desta fascino, tant'è che Gianna da Rimini dimostra con questo messaggio Gianna, una sorta di interesse, no, di curiosità nei tuoi confronti, e ti chiede: Umberto, qual è la prima cosa che ti colpisce in una donna? La prima cosa, ma devo dire una cosa, posso dire una cosa, mo non ci crederà nessuno, certo, no? Dì, perché dì. Penserà, no, le tette, il culo, gli occhi. No, pensa, io la prima cosa che mi ha colpito della mia ex, no? Ma ex fino adesso, perché potrebbe diventare anche la mia lei. Io me la ricordo, era molto carina, quei bei capelli neri che aveva. Sì, occhi bellissimi, sorriso, faceva delle imitazioni pazzesche. La prima cosa che mi ha colpito di lei erano le ballerine. Le ballerine, cioè le scarpe. le scarpe, le ballerine. Ma come è possibile? Che c'hai tu nella testa? Come le ballerine? Io adoro le donne con le ballerine, pensa. Cioè, se tu vedi una donna con le ballerine, già un po' ti innamori. Cioè, no, non è che mi innamoro, ma lei aveva delle ballerine color argento bellissime. Ma cosa ti fa scattare nella mente la ballerina? Cosa pensi quando vedi una donna con le ballerine? A me piacciono le donne semplici, e quindi la ballerina è una scarpa semplice, secondo me anche molto elegante, quindi... Io mi ricordo com'era vestita. Aveva dei jeans, una maglietta e delle ballerine. Bellissima, me la ricordo. Cioè, quella cosa era pazzesca. Cioè, altro che fuori amore. Qui sta diventando fuori tragedia. Una roba allucinante. Però, insomma, io detto ciò, colgo l'occasione per chiedere a chi ci ascolta da casa o dalla spiaggia, basta o che dalla ci ascolta. Montagna. Basta che ci ascoltate, no? Cosa vi colpisce in una donna o in un uomo a prima vista? Che cosa? Ditecelo ai fuoriposto @ radio24.it, oppure potete anche telefonarci e lasciarci questo messaggio in segreteria allo 02 465 24 182, o via WhatsApp o SMS al 349 238 6666. Oppure possono scriverci anche sulla nostra pagina Facebook, no? I fuoriposto, no? Certo, i fuoriposto. E i fuoriposto è il nome della nostra trasmissione. Noi raccontiamo le storie di chi un posto non ce l'aveva, di chi lo sta cercando, ma anche di chi l'ha trovato, no? Sì, un posto di chi l'ha trovato. E io poi ho dei vuoti di memoria clamorosi, no? Ma pochissimi giorni fa abbiamo parlato, e dico purtroppo, no, dei pensionati che, vista la crisi, sono costretti a vivere all'estero. Certo, perché, no? Raccontiamo, sta diventando un fenomeno sociale. Cioè, i pensionati d'Italia godono purtroppo di pensioni veramente minime e non ce la fanno ad arrivare a fine mese, e scoprono che in altri paesi come la Bulgaria, ma anche ad esempio la Romania, invece il tenore di vita è più basso, e con la pensione che hanno possono fare una vita molto più decorosa. Sì, possono fare una vita più decorosa, ovviamente senza lussi, ma vogliono andare al ristorante, al cinema, poter fare una piccola vacanza. Insomma, quello che dovrebbe essere il diritto, esatto, di tutti, e soprattutto di chi ha lavorato una vita. Esatto, cose essenziali. Cioè, non stiamo parlando di privilegi o cose clamorose, ma quello che spetterebbe a tutti. Ma purtroppo in Italia, per molti pensionati, queste cose non spettano. E quindi abbiamo raccontato due storie molto toccanti. Due storie molto belle, molto toccanti. Addirittura uno dei due si è commosso, Antonio, no? Ricordando dell'Italia. A tal proposito, però, dopo aver ascoltato la nostra puntata all'estero, in streaming, ci è arrivata una mail di Beppe, no? Che adesso vive in Romania. Dice: anche io vorrei raccontarvi la mia storia, perché è molto simile a quella raccontata da Franco e Antonio, ma con dei caratteri, dei risvolti leggermente diversi. Allora, curiosa noi, questa cosa. Sai che abbiamo pensato? Non mi dire che l'abbiamo chiamato. Eh sì, è certo. Che è bello. Certo. Radio 24, quando si tratta di fare telefonate, non bada a spese. Un attimo, niente. Oh, d'altronde. Ci sei, Beppe? Sì, buongiorno, sono qui. Benvenuto ai fuoriposto. Grazie. Ciao, grazie. Beppe, dove ti trovi? Dove vivi tu adesso? In Romania. Quindi siamo collegati con la Romania, dove di preciso? A Rad. A Rad, ok, perfetto. Senti, Beppe, sei arrivato anche tu a sentirti fuori posto in Italia, giusto? Sicuramente, super fuori posto, non fuori posto. Mm-hmm. Perché? Perché in Italia non si può più vivere, non si può più andare avanti, e nei paesi dell'est si va ancora avanti, ci sono le farfalline. Ci sono, scusa? Le farfalline, cioè, no? Quegli animaletti carini con le ali colorate. Colorate, capito? No. Poi ti viene l'andrealina, viene la farfallina. Mi sa che Beppe allude ad altro. Sì, un po' allusiva questa farfallina. Allude ad altro. Detto ciò, tu sei un pensionato che vive all'estero e è andato all'estero per la crisi? Per forza, ma non sono, penso, l'unico, ce ne saranno tanti, molti. Ma quindi, crisi a parte, no? Come ti trovi all'estero? Diciamo abbastanza discretamente, perché poi, arrivata la mia età, avere la possibilità di avere una bella farfallina e si viene l'andrealina, e la farfallina giovane ti fa diventare giovane anche a te, cosa vuoi più dalla vita? Senti, a proposito di gioventù, quanti anni hai? 63. E tu a 63 anni in Romania hai tante farfalline, giusto? Sì, molte farfalline, belle, colorate, tenerine. Allora diciamolo per chi non l'avesse capito. Ecco perché dicevi, quando c'è scritto la mail, con dei risvolti leggermente diversi, giusto? Perché, sì. Perché mentre Franco e Antonio erano due pensionati che avevano, tra virgolette, una vita normale, mi sembra di capire che tu, oltre ad un tenore di vita agiato all'estero, hai trovato anche delle ragazze, giusto? Sicuramente. Di quanti anni? 18, 20, 21. Ammazza la faccia. Senti, ma ora sei fidanzato? Ma questa l'Andrealino, scusa, cosa la? Deve trovare la cosa tenerina. L'Andrealina fa arrivare la farfallina. L'Andrealina? Ma che è l'Andrealina? Cos'è l'Andrealina? Che cos'è? L'Andrealina, sì, contento, l'Andrealina viene la farfallina. Senti, Beppe, scusa, ma l'Andrealina. L'Adrenalina. L'Adrenalina, non capisco, non capisco. Senti, Beppe, ma in questo momento tu sei fidanzato con qualche farfallina? Fidanzato con tutte, ma sposato con nessuna, no? Hai capito che furbacchione. Ah, quindi praticamente da pensionato in crisi in Italia hai trovato il tuo posto ideale, no? Trasformandoti in un playboy incallito, mi pare di capire. Ma diciamo su quella strada, dai. Ma scusa, tu c'hai 63 anni, ma gliela fai a tenere botta con queste ragazze di 19 anni? Ma come anni? No, è una vita. Ah, quindi tutto a posto. Nella vita bisogna avere l'Andrealina e la farfallina, così si smuove tutto. Cioè, tanto bisogna avere l'Andrealina. Ci dobbiamo preparare per l'aldilà, no? E allora godiamoci la vita con la farfallina. Come dare torto a Beppe. Come ragionamento non fa una piega. Cioè, scusa, quindi tu da quando vivi all'estero, cioè, sei diventato un playboy a tutti gli effetti, mi pare di capire. Diciamo abbastanza, sì. C'è questa possibilità, dopo logico, devi avere un po' lo spirito giovane. Senti, ma parliamo di numeri, ma visto che questa è la radio comunque dell'economia, no? Sì. Cioè, quanto ti costa diventare playboy all'estero? Quanto ma non paghi? Costa tanto, una mutandina, una camicetta, un pensierino, non soldi, solo pensieri. Questo che conta. Ah, cioè, praticamente regali dei vestiti. Ah, quindi regali. Devi essere amabile, dolce. Cioè, E queste ragazze si innamorano di te, quindi? Beh, si innamorano, diciamo che io almeno ho questa sensazione, dopo sai, si innamorano o non si innamorano, l'importante è la farfallina portarla a lettino. Certo, perché conta il risultato. Sì. Che essere spregevole, posso dire? Che essere spregevole. Comunque bastava una mutandina, dicevi? Una mutandina, una camicetta, un paio di casse. Oggi la donna apprezza molto più il gesto, di regali qualcosa, la moneta è una cosa scaduta. Dici, non ha più valore. Pagare le donne è fuori moda, pagare le donne. Una poesia, regali una mutandina e fai la serata. Guarda, io sono convinto che... Insomma, la moneta è una cosa scaduta, insomma, non credo sia esattamente fino certo così, punto. Però fino a un certo punto. Però, detto ciò, tu che c'hai 63 anni, come corteggi una ventenne? Vero, cioè, non ti senti... scherzi a parte, no? Cioè, io personalmente, mi sento ridicolo adesso, quindi figurati che ho 36 anni, quindi figurati a 63 anni, no? Tu a 63 anni non ti senti un po' ridicolo? No, perché spesso e volentieri una ragazza... cerca nell'uomo una protezione, no? Ah, quindi tu punti sul fatto di essere uomo protettivo? Sì, è affettivo. È dare tutto quello che manca alla ragazza a livello affettivo, perché poi oggi i giovani lo vediamo, no? Sono in crisi, si suicidano, si ammazzano, fanno di tutto, fanno delle cose fuori di testa, perché effettivamente manca l'affettività nella gioventù. La gioventù oggi è disperata perché secondo me ai tempi indietro, insomma, i figli venivano un po' più rispettati, si stava più dietro, oggi non esiste più niente. Ma una cosa oggi che... non c'è più nella società in cui viviamo, è finito tutto, il rispetto, l'affetto, l'amore, la passione, cioè i valori umani non ci sono più. Questa è la tragedia dell'umanità. Tu rappresenti... tu rappresenti i valori umani che fai regali a una ventenne per portarti a letto. Compri le magliettine. Non mi pare il massimo. No, valore umano nel senso, voglio dire, che se oggi la ragazza giovane, diciamo, si avvicina a te, ovviamente per questo discorso, no? Senti, però prima te l'ho chiesto, ma tu hai un po' deviato il discorso, ma siccome parliamo di ragazze giovani che hanno molte esigenze, no? Tu comunque c'hai una certa età, questo è innegabile, tu riesci a tenere comunque il ritmo? Sì, basta che c'è un carattere forte, vai avanti. Eppure il Viagra, mi immagino. No, quello un po' di meno. Un po' sì, però. Però lo usi? No, ancora no. Dici la verità, guarda, qui a Radio 24 c'è il bugiardometro che inizia a suonare all'impazzata. No? Sì. Se tu dici le bugie, quindi io ti rifaccio la domanda, tu pensaci bene, prenditi due secondi, se no il bugiardometro suona se tu dici una cazzata, va bene? Sì. Quindi tu a 63 anni per andare con le ventenni usi il Viagra o no? No. Eccola, è suonato. Il bugiardometro, cioè... mica un peccato, c'è tanta gente anche più giovane che ricorre a questi espedienti. Sì, lo so, scusa, ma è una cosa normale, a me ancora non mi succede. Da quanti anni sei lì in Romania? Beh, adesso sono, prima ero in Repubblica Moldava, adesso qua sono 2 anni che sono ritornato. E in 2 anni con quante ragazze sei stato? Beh, una quindicina. Ah, una quindicina, ammazza. Però. Ma anche perché quello che voi chiamate Viagra, il Viagra è cambiare la donna, è quello vero Viagra. E questo quando tu cambi la donna, lì è Viagra. Filippo, quando tu stai sempre con vedo, quella, ti vedo pronto. Ti vedo pro Beppe, ti pro vedo. Beppe, perché io insomma, mi avvicino alla tua età e quindi mi sto anche proiettando. No? Ma tu, una curiosità, per caso hai lasciato in Italia una famiglia, cioè hai avuto dei figli con precedenti matrimoni oppure no? Sei, sì. Scusa, ma sono grandi ormai. Ma i tuoi figli lo sanno che adesso stai lì a fare questo tipo di vita o no? Ma sì, lo sanno, e poi è una scelta di vita, no? Certo, certo. Quanti anni hanno i tuoi figli? Sono grandi, dicevi, che età c'hanno? Sì, 30 e 33. Certo, sono grandi. E non si sono incazzati, no? Un pochino arrabbiata, ma non cioè che ti dice? Papà, che sta a fare? Una battutina così. Senti, al di là di tutto, tu parli rumeno, quindi? Sì. Tipo, ciao bella, come stai? Facciamo anche... una lezione di rumeno, no? Così per i nostri radioascoltatori. Sì, ciao bella, come stai? Come si dice? Ciao bella, come stai? Gli dice Formosa. Che faccio Formosa? Cioè solo Formosa? Solo Formosa? No, ce ne sono altri. Cosa fai, bella? Questo è italiano, questo però. È italiano, però. È italiano. Umberto t'ha chiesto... No, Umberto t'ha chiesto come si dice in rumeno. I tuoi occhi mi fanno impazzire. Come si dice in rumeno? I tuoi occhi mi fanno impazzire... Stai un attimo, adesso non è che lo so al 100%, ma come cazzo mi fanno impazzire? Non lo sai al 100%, che percento? Ma come cazzo? Vabbè, stai inventando. Vabbè, l'ultima frase. Lo sguardo tuo mi fa impazzire. Che cazzaro, straparla. Stai dicendo delle cazzate. Stai dicendo delle cazzate pazzesche. Guarda, l'ultima frase capiamo, perché noi abbiamo un esperto rumeno, Max, in regia, che quindi ci dice se è una cazzata o no. Allora, la frase clou. Vuoi fare l'amore con me? Senza dirlo, degli rumeno. No, ma come lo dici in rumeno? Come si dice in rumeno? Come si dice in rumeno? Vuoi fare l'amore con me? Dragoste. Dragoste. Ma come? Questo, cioè, ma in rumeno parli mezz'ora, in rumeno una parola. In Italia 18 frasi. Ascolta, io non è che vado, parlo tanto quando devo fare passi e fatti. Però tu sappi che se tu non parli o non chiedi potresti essere accusato di violenza sessuale o tentata violenza sessuale. Però Beppe, sappiamo che hai i suoi mezzi, no? Conosciamo i mezzi di Beppe, no? I mezzi di Beppe. La mutandina, la cenetta. La cenetta, le magliette, i regali. È normale. Senti, vabbè, comunque mi sembra di capire che tu sei molto soddisfatto della tua vita, no? Non mi posso lamentare. Senti, e cos'è che ti manca dell'Italia? Beh, mi manca i prodotti alimentari, mi mancano tante cose, normale questo. Torneresti mai in Italia? Ma perché no? Ci torno ogni tanto, ci torno, vengo in Italia, non è che non ci vengo più. No, ma dico, torneresti mai più a vivere in Italia? Ci torneresti a vivere? No, ultimamente credo, con tutta dove la politica che c'è in Italia, con tutto lo schifo che c'è in Italia, con tutto quello che stanno facendo i politici... Se riusciamo a ammazzare tutti i politici che stanno in Italia e rifare politica nuova, sono il primo. Questa ma con i politici populista, che ci sono attualmente, ma per l'amor di Dio, delinquenti, assassini, in Italia non c'è più legge, non c'è più rispetto. Detto ciò, mo, politici a parte che avranno le loro pecche, insomma, avranno sbagliato, ma anche perché se vieni in Italia... Ma no? Chi te se pia? O no? No, dico, Italia, cioè, non avresti lo stesso successo come Playboy? No. Sicuramente no, assolutamente. Diciamolo. Perché tu qui come italiano c'hai la donna, c'ha un fascino in Italia. Diciamo, in Italia non basta la mutandina, diciamolo. In Italia la mutandina non basta, diciamolo. Ma non è che non basta la mutandina, in Italia proprio non hai chance, non hai possibilità, io lo vedo, c'ho degli amici in Italia, sono lì, fra poco muoiono, non c'hanno niente, anzi in Italia non riescono nemmeno a trovare la tartolina, non trovano nemmeno la quarantenne o la cinquantenne. Di mamme, perché di Umberto. Perché comunque, io sono disperato, poi lasciamo stare. Comunque, detto ciò, perché tu giustamente dici che all'estero le ventenni rumene vengono con te perché, insomma, perché hai fascino, no? Anche se hai 63 anni. Ma prima c'è il discorso che siamo italiani, noi italiani, siamo accettati un po' tutto. Abbiamo sbagliato tutto, Filippo. Noi stiamo qui a Milano, Umberto, dovremmo andare a Bucarest. Tu sei convinto di esercitare il fascino dell'italiano, giusto? Sicuramente. Qual è il tuo asso nella manica, a parte i regali? Ah, l'asso sonda alla manica, corteggiare la donna, cercare di capire che cosa vuole, cosa desidera. Cioè, secondo me la sonda alla manica, poi ci deve essere anche fare l'educazione, un'intuizione nel senso. Cosa desidera? Cosa desidera? Tipo una macchina, un maglione, cioè questo intendi? Tipo un anello, questo, cioè i desideri... Ce ne sono, saranno il 70-80% in tutto il mondo che chiedono l'anello, la macchina o la Ferrari. Devi capire che ci sono donne che rispettano l'uomo, nel senso che vanno con un uomo perché gli piace l'uomo, ma ci sono donne invece che gli interessa solo le cose materiali. Su questa cosa ti saluterei, caro Beppe. Forse è meglio. Perché, insomma... Le nostre radioascoltatrici, sento dai messaggi che arrivano, no Filippo, non gradiscono tantissimo. Non gradiscono perché effettivamente trovano la cosa un po' troppo cruda. Sì, però cruda, insomma, se vengono qua gliela facciamo vedere cotta. Però insomma, detto ciò, Beppe, noi ti ringraziamo comunque, ovviamente poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, no? Nel rispetto degli altri, quindi... A noi ovviamente siamo politicamente scorretti, ci piacciono i fuoriposto, no, ci Filippo? Piacciono tantissimo i fuoriposto e Beppe è un grandissimo, eccezionale fuoriposto. Sì. Beppe, mi raccomando, resta lì e non tornare mai in Italia, mi raccomando. Va bene, se torno vi chiamo. Ciao Beppe. Vabbè, insomma vediamo. Chiamaci, vediamo, ciao. Poi ne parliamo. Ciao Beppe. Ciao. Vabbè, noi Filippo che facciamo? Torniamo tra poco? Torniamo tra poco ai fuoriposto con Filippo Roma e Umberto Alezio, vi aspettiamo. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. I fuori posto. Ti amo, un sogno, ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo. Quando ascolto questa canzone, indovina a chi penso? A chi pensi? Penso a lei, purtroppo penso a lei. Guarda caso, purtroppo per fortuna. A proposito, visto che tu sei molto più vecchietto di me, no? Che anni erano? Allora, che grande amico che sei Umberto, ogni volta che ricordi che sono più vecchio di te e vecchio in generale. Però e di un bel po'. Quest'anno non ricordo molto bene perché Ti Amo ha caratterizzato l'estate del 1977, ero già vecchio, avevo 7 anni. Un grande successo di Umberto Tozzi, no? Sì, in tutti i jukebox, in tutti i bar si ascoltava soltanto questa canzone nell'estate del 77. Eppure, caro Filippo, no? C'è qualcuno che potrebbe rivendicare, no, questa canzone. Ma non è possibile. Sì, ma questa è di Umberto Tozzi, basta. Ma che Umberto Tozzi? Ma chi è Umberto Tozzi? Ciruzzo Tozzi, questa è una canzone mia, mio cugino. Ormai siamo all'indecenza, cioè lui entra in diretta proprio quando quando gli pare, ormai è casa sua, Radio 24. Sì. La verità vi fa male, lo so. Ma che fa male? Ma la verità? Ma che c'entriamo noi? Cioè... voglio bene. Tu non mi pensi proprio. Ma che è ecco sta cosa? Quell'altro mi fa le corna. Scusa. Ma che cos'è questa cosa? È un pezzo mio famosissimo che mio cugino mi ha rubato. Chi è tuo cugino? Scusa. Chi sarebbe tuo cugino? Cioè tu stai asserendo che tuo cugino è Umberto Tozzi? Scusi, ma io come faccio di cognome, Effettivamente sì, Tozzi. Però scusa, Umberto Tozzi è toscano. Hai visto la mia foto? Lo so che il radio non si vede, ma l'hai vista la mia foto? Per fortuna no. Io purtroppo sì, io per Filippo, fortuna no. Purtroppo come, sì. Come ha fatto? Aspetta, approfittiamo un attimo per descrivere il nostro grande economista. Capelli rossi, con la fila in mezzo, che mi scendono sulle spalle. Che cosa orribile. No, come Umberto Tozzi, che a voi non era orribile, no? Non ci permettiamo di offendere Umberto Tozzi, non è orribile. Cioè, quindi lei, perché... io a questo punto prendo le distanze... Gli do del lei a Ciruzzo. Quindi lei vorrebbe, no, lei sosterrebbe che addirittura Tozzi l'ha copiata non solo nelle canzoni ma anche nel look? No, io lo sostengo io, nessun'altra. Io lo sostengo. Io, ha detto lei, lei chi è che sostiene questa cosa? Lei come No, lei tu. Vabbè, no, vabbè, niente. Ah, ecco. Comunque... No, avevamoci detto, non ti preoccupare, la puoi dire la confidenza. Io sono un ragazzo semplice. Vabbè, allora, quindi tu stai dicendo, no, Filippo, correggimi se sbaglio, che cioè praticamente lui ha scritto ti amo. Cioè, tu sostieni che ti amo è opera tua. Guardate ragazzi, io sono il frate cugino di Umberto. Frate cugino, no, questo sarebbe cugino di Umberto. Il cugino, giusto? Il cugino di Umberto, il cugino, ma... di Umberto. Carnale, carnale. Ma qual è la parentela? Scusa, facci capire. Lui è mio figlio, padre è il frate cugino del padre. Tuo padre è stato cugino del padre. Vabbè, ma non c'entra niente questa cosa. Ma poi Tozzi. Cioè, scusa, ma quale sarebbe Nunzia? Il plagio? Nunzia, esatto, Nunzia. Ma, scusa, Nunzia, la canzone mia Nunzia. Scusa Andrea, ascoltiamo un attimo, sentiamo, Nunzia, sentiamo. Perché a me sembrano diverse, poi non lo so, Nunzia, ricordo quando era strana, tu che la faccia padana. Ma non so, dimmi tu, magari io sono in malafede. Per me non c'entra niente. Questa non c'entra niente con te. Sentiamo ti amo. Scusa, cioè, anche dalla regia Max e Andrea mi dicono di no, cioè non c'entra niente. Tutti confermo o no? Perché voi siete speakers, che ne capite di queste cose? Sì, vabbè, sono un musicista. No, ma scusa, allora... Ma sapete la musica, la conoscete? La musica voi, sì, la conoscete? No, allora facciamo se così. Dico, do, re, mi, fa, si, lo, ti, rec, tu la conosci, re. Le note, le conosci? Guarda, facciamo così. Tu in che anni hai scritto Nunzia? Adesso me lo mettiamo alle strette. Sì, per forza. In che anno l'hai scritta? Scusate, ma il collegamento con l'economia non si fa oggi? Non cambiare argomento. Vuoi fare l'economia? Che vergogna. Cioè, tu vuoi parlare sempre dei cazzi tuoi, ma vuoi fare l'economia? No, per serietà, se uno si collega a una radio per sapere delle cose da me, perché dobbiamo dire i fatti miei? Non li voglio appunto, dire. Appunto, per serietà. No, per serietà, cioè, guarda caso, tu dici oggi a Mondragone, domani a Nola, dopodomani a Caserta, ti fai tutte le marchette, proprio adesso che ti ho chiesto la data, che la prova schiacciante, dici parliamo di economia. Vabbè Filippo, parliamo di economia. A proposito ragazzi, volevo solamente dire, domani sono a Battipaglia. Battipaglia. Faccio uno spettacolo a Battipaglia, purtroppo ci siamo concordati, invece di pagarmi con i soldi mi pagano con le mozzarelle. Buttale via però, buttale via le mozzarelle di Battipaglia. No, che ci sono buonissime. Quindi, cioè, questi tempi. Almeno non soffrirei la fame. Certo, però soltanto non è che me ne danno assai. Vabbè, comunque lasciamo, sono fatti miei, parliamo di cose serie. Mi avete chiamato per una cosa, voglio fare il professionale, no? Ah, bravo, ecco, veramente bravo, poi bravo. Torna fuori il professionista che è lui, questo mi fa piacere, Umberto. Perché oggi dobbiamo affrontare, Umberto, un argomento molto serio dal punto di vista economico, no? Umberto chi, scusa? Umberto Alezio. Umberto tu, perché quando sento Umberto io mi arrabbio, perché Umberto Tozzi, capite, mi fa venire la febbre, mi fa arrabbiare. Vuoi accusare anche me di plagio? No, che c'entri tu? Però io sento Umberto. Anche perché se accusi me di caccio, cioè dalla radio, scusami, dalla Radio 24. Non ti offendere, ma Umberto Tozzi è più famoso di te. Certo, è vero. Ma sei famoso pure tu per quei programmi che fai. Aspetta che il programma vada avanti, poi vediamo se è più famoso Umberto Alezio o Umberto Tozzi. Devo dire che è anche più famoso di te, Umberto Tozzi, o no? Sì, perché quello è un più famoso di me a Milano. Ma no, in tutta Italia, ma anche è famoso, cioè, no. Pure a Napoli, conoscono di più. Ti assicuro che a Casoria, a Fragola, Frattanaggiore e altri 3-4 posti qua io non me lo vedo proprio. Ah, tu dici lì sei più forte di Umberto Tozzi? Certo, ma poi era a me nei concerti, mica a lui, lo sanno che è un ladro. Filippo, oggi di che parliamo? Oggi parliamo ecco, torniamo al nostro Facciamo tema. Facciamo partire il nostro momento finalmente. Perché ci perdiamo sempre in un mare di chiacchiere quando c'è Ciruzzo Tozzi. Ci perdiamo, vai. Peraltro non capisco perché il nostro pubblico di radioascoltatori è molto raffinato, però Ciruzzo Tozzi riscuote un grandissimo successo, no? Questo o sta cambiando il pubblico della radio? Sta cambiando. Questa cosa li brucia, Perché brucia? Sarà il caldo. Comunque, bando alle ciance, qui bisogna parlare di economia oggi. Certo. Allora Ciruzzo, l'andamento dell'IVA, Allora, facciamo un piccolo preambolo. Allora, sì. Va bene? Faccio questo preambolo? Sì, vabbè. Parli di andamento. Non è un'offesa il preambolo. Faccio un preambolo. Preambolo, si fanno i preamboli prima dell'andamento. Bravo. Allora, sai che si dice, no? Che praticamente da ottobre, novembre o comunque nel 2017 potrebbe esserci anche l'aumento di un punto, no? Quindi tu cosa ne pensi dell'IVA? Della IVA? Sì. Dell'IVA, sì. L'IVA, IVA. L'imposta sul valore aggiunto, no? Cosa? Vabbè, diciamo che io non sono molto pratico, devo essere anche molto onesto perché nelle cose bisogna essere chiari. I nostri radioascoltatori devono avere chiarezza, le bugie non si possono dire. L'argomento, diciamo, non è quello che per me proprio, io non sono proprio ferrato, diciamo, non parliamo. Ma come sei ferrato? Perché? Perché più che, insomma, l'IVA, come sei, alle volte quando vai al mod ti dicono sempre queste cose. Tu che ne pensi della Paola? Che ne pensi della Alessia? Che ne pensi della Tiziana? Che ne pensi della IVA? Ma che stai dicendo? Fischi della per IVA. Fia. Io, diciamo, questa qua proprio, non c'ho una mia amica che si chiama della Vanessa, una ragazza di Milano. Ma che c'entra Vanessa, Paola? Ma IVA. La mia amica, se tu mi avessi detto che ne pensi della Vanessa, non avrei risposto. Ma della IVA, l'unica IVA che conosco. Forse ho capito, ragazzi, ci siamo capiti. Oh, meno male, allora quindi... Perché ho capito, parlando di musica, di canzoni, ho capito, ma sono andato un attimo di ritardo, scusate no, tanto. Non ti preoccupare, dai, prosegui, non ti preoccupare, meno male. Ma diciamo che ci manca. Cosa? Ci manca un po' di tempo che non c'è, quindi... Ma allora, noi stiamo parlando... Gli italiani la dovrebbero riavere. Questo è deficiente, noi stiamo parlando dell'imposta sul valore aggiunto. Gli italiani devono riavere perché una grande artista ha fatto molto, Iva Zanicchi, diciamo che... Ma che c'entra Iva Zanicchi con l'IVA? Ma che c'entra? Avete d'andamento, allora ho pensato subito a quelle due... Ma questo è proprio ignorante, ma perché non lo cacciamo, scusa? Perché ti ostini sempre... Dal primo giorno che ti dico con questo non andiamo da nessuna parte. Cioè, Ciruzzo, io parlo alla gente. Ma che ne sapete voi di queste cose? Io parlo alla gente, al cuore della gente. Io vado dentro alle viscere della gente. Ho capito, ma se poi la gente non capisce un cazzo di quello che dici, no, cioè. No, è là, è il punto che la gente a me mi capisce e mi vuole. Come voi si state detti che questo è successo? Perché? Perché anziché fare parole e paroloni, frattagli e frattagline che fate voi, io vado al cuore della gente. La gente vuole un'altra volta i Vasanetti. Questo non, ci può, non si sa, non questa, è una cosa del tutto arbitraria. Questa è una tua deduzione, cioè, scusami. Tu dici la gente vuole i Vasanetti. Anche se a me non mi piace tanto, devo dire la verità. Perché, un po' più moderno, insomma. Perché non, cos'è che non ti piace di Vasanetti? No, mi piace lei, come se fa, si è rifatta pure bene, si è tenuta pure bene. Però adesso ormai i tempi suoi sono passati. Rifatta. Diciamo, se proprio dobbiamo resumare qualcuno, facciamo ricchi e poveri. Ma vabbè, questo così, un giro negli anni Ottanta. No? Parliamo di economia? Noi siamo qua apposta. Allora? Ricchi e poveri. Scusa, tu l'IVA la paghi o no? Veramente, ragazzi, io non ho mai pagato nessuno. Ma questo è cretino, ma sei offensivo, no, anche. Ovvio, certamente no. Non ho mai pagata l'IVA, mai. Ma, mai pagata, anche ci siamo mai pagata l'IVA. Di volte. No, ma che mo voglio ho scendere. Detto, guarda, se devo pagare non ti pago. Se me è così, me la vuoi dare così, insomma, diciamo. Ma questo è cretino. Guarda, io mi dissocio. Cioè, tu stai sostenendo, peraltro, nella tua follia, questo è un cafone, peraltro. Che lui ha avuto un rapporto intimo con Iva Zanicchi? No, proprio per questo, proprio perché lei ha detto, su, tu, vediamo, io ho capito che era una questione di soldi, no, ho detto perché no. Stai dicendo? Stiamo parlando di soldi offerti di Iva Zanicchi? No, dai. No, ma Iva Zanicchi, capito, oltre pensato, che essere una bellissima donna, è una gran professionista, grandissima, dai. Anzi, salutiamo Iva Zanicchi, se non questo ce l'ha pure causa. Salutiamolo. Ciao Iva, se vuoi gratis va bene, perché ti voglio bene. Ma che se vuoi gratis? Oh. A parte che poi non si capisce perché una star di successo internazionale come Iva Zanicchi dovrebbe venire a letto con uno come te, insomma. No? Vabbè, scusate, ma che significa? Questo, il mondo è pieno di queste cose, ma Belen non va a letto con Borriello? Appunto, ma Borriello è un bel ragazzo. Hai visto Borriello? Cioè, ti vuoi paragonare a Borriello? Scusa, Vabbè, ma dai, Borriello vende le sigarette con la banda. È tutto male. Ma quando mai? Ma come ti permetti? Cioè, chi te la dà? Borriello è un calciatore. Io non sono un grande esperto di calcio, ma è un di successo, no? Soprattutto è un bellissimo ragazzo. Su questo. Vabbè, che c'è da dire su di me? Io pure sono un bellissimo uomo, lo dicono tutti. Guarda che Borriello c'ha gli addominali scolpiti. Tu ce l'hai gli addominali scolpiti? Io tengo la pancia che è scolpita. La pancia. Tu a furia di mangiare mozzarella di bufala che ti danno nelle per pagare le tue serate mia, o dobbiamo parlare di femmine, di cantanti, quando ti fa comodo subito, mannaggia te, quando non gli conviene. In tutto ciò, Umberto, manco oggi siamo riusciti a parlare d'economia. No, beh, perché lui svia, pazzesco, capito? Però oggi posso dire una cosa, abbiamo dato impasto a la cronaca rosa, no? questo piccolo flirt pare tra Ciruzzo Tozzi e Iva Zanicchi. Pare. Pare, almeno una notiziola l'abbiamo tirata fuori. Che te devo dire? Beh. No, ragazzi, io però vi devo ringraziare tanto, veramente. Bravo. Di cosa? Riconoscente, male, riconoscente. Sì, perché la gente, oggi faccio un servizio doppio. Quando la gente mi chiama per fare le serate, arrivano anche altre persone e dice: senti, io aumento il cachet. Perché dico, guardate, oltre a fare lo spettacolo, cantare le canzoni, perché sono il più grande neo melodico di tutti i tempi, lo sanno. Ma però io faccio questo lo dici tu. Prima o dopo, io faccio anche la, diciamo, come si dice, la parlata, la chiacchierata, una chiacchierata sui consigli come vestire, queste cose qua, capite, i soldi. Perché mi ha sentito per Radio 24, ha detto, tu sei quello che fa pure queste. Allora io ho fatto la spesa, come devo risparmiare per far pagare più pochi pomodori, oppure tante altre cose. Guarda, io mi fermerei qui. Sì. Ciruzzo, ci vediamo prossimamente. Ci sentiamo. Io direi, caro Ciruzzo, facciamo così. Caro Ciruzzo, facciamo così. Sì. Se sei d'accordo, pure con Filippo, prendiamoci qualche ora di pausa. Ma anche qualche giorno di pausa. Anche qualche mese di pausa. Anche un anno, guarda. E ci risentiamo prossimamente, sempre qui su Radio 24 ai Fuori Posto. Chi è più fuori posto di Ciruzzo Tozzi? Guarda, facciamo una cosa diversa, no? Se sei d'accordo, Filippo, facciamolo ricordare a Ciruzzo. Così si rende utile almeno una volta. Dai. Scriveteci a ifuoriposto@radio24.it. Vai, Ciruzzo. Scriveteci a ifuoriposto radio chiocciola 24 no 24 prima Filippo, ricordali tu. Sì, allora, ifuoriposto chiocciola radio24.it, oppure alla segreteria allo 0246 524182, oppure caro Umberto, anche gli sms WhatsApp, vuoi ricordarli tu? Prego. Sì, al 349 23 86 666. Noi ritorniamo tra poco, sempre qui ai Fuori Posto Radio 24. I Fuori Posto. I Fuori Posto, accanto a me Umberto Alezzo, il sottoscritto è Filippo Roma. Siamo sempre all'eterna ricerca di storie di gente fuori posto, perché a noi piacciono quelli fuori posto, Umberto. E a tal proposito, no? Sì. Ti racconto una storiella, no? Sì. Che ci è arrivata qualche giorno fa in segreteria telefonica. Anzi, approfitto per ricordare il numero, che è 0246 524182, e diceva: cari Umberto e Filippo, anche io ero fuori posto, no? Ma poi ho trovato il mio posto ideale a metà tra informazione e politica, no? Interessante. E allora mi sono detto quello che hai appena detto tu, cioè mi sono chiesto: caspita, è interessante questa storia, adesso la chiamo, no? E lei si chiama Valentina Busiello. Ah, una ragazza, una donna. È una ragazza. Una ragazza. No? Ma che ragazza? Perché si sentiva come un pesciolino fuor d'acqua, perché non riusciva a trovare la sua strada. Ma poi la carissima e nobilissima, perché pare che abbia anche origini nobili, Valentina Busiello ha trovato il suo posto ideale, la sua strada ideale, a metà tra informazione, quindi giornalismo, e politica. Quindi due campi ambiziosi, importanti. E quest'oggi ci fa l'onore, no? Ci ha fatto l'onore di essere nostra ospite. È giusto, Valentina? Ci sei? Giusto! Buongiorno a tutti, un cordiale saluto da me. Sono felicissima di partecipare a Fuori Posto. Oh, che voce aulica e che modi educati, Valentina. Valentina, per noi è un onore ospitarti qui a Radio 24. Ma sono onorata io di parlare con voi, di essere ospitata. Che carina, che carina. Senti, Valentina, allora, ho detto bene, racconta a Filippo e a tutti quelli che ci ascoltano da sotto l'ombrellone, no? Sì, sì, hai detto benissimo, Umberto, è vero, Filippo, io ho scritto questa lettera perché mi sentivo un pesciolino fuor d'acqua, quando poi ho trovato il mio posto, insomma, in società, tra la politica e l'informazione. Spiegaci. E che posto ha trovato? Tu scrivi, ormai sei corrispondente di successo per grandi riviste, no? Ricorda un po' i nomi. Soprattutto per Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia! Che è un sito apposta per, insomma, pubblicare eventi politici e tutto quello che riguarda, insomma, la parte della politica. Quindi ti sei collocata con la Meloni, sì, con la Russa. Sì, esatto, sì. Ma mi sbaglio, hai fatto un piccolo saltello, perché tipo avevo un po' googolato il tuo nome, prima eri con Forza Italia, giusto? Con Forza Italia, sì, sempre con Forza Italia, sì, non si tradisce mai, insomma. No, si tradisce, però sei andata a Fratelli d'Italia adesso. No, ci scrivo soltanto per questo tipo, quindi il giornalista non può dichiarare la sua... Però non sono proprio amici, diciamo, no? non sono proprio, non sono proprio amici amici, no? Forza Italia e Fratelli d'Italia. Però il giornalista può scrivere per qualunque testata. Certo, certo. Senti, raccontiamo un po' quello che ti piace di più della politica. Sì. Quello che mi piace di più della politica sono le loro convention politiche. Ah, le loro di chi? Di chi, scusa? Di... insomma, i convegni politici che vengono fatti all'interno del Senato, insomma, tutti questi discorsi politici abbastanza anche noiosi, però sono abbastanza anche interessanti. A volte sono interessanti o sono noiosi? Faccia capire. Beh, un po' fuori posto questa risposta, un po' come me. Vabbè, Valentina non vuole sbilanciarsi. Non si vuole sbilanciare. Giustamente, cioè, vuole... Allora... Valentina, no? Valentina, oltre a essere, insomma, ormai tutti i nostri radioascoltatori l'avranno capito, una giornalista di inchieste di successo, vogliamo raccontare la tua ultima inchiesta su cosa l'hai fatta, per esempio? Sì, l'ultima inchiesta l'ho fatta per una convention politica tenuta proprio riguardo il turismo sulle varie isole, Capri, Ischia, Procida. Ah. E mi sono accorta che, insomma, nonostante si parli di crisi nel mondo, in Italia, insomma, gli alberghi a 5 stelle sono strapieni. Ah. Intanto la Gabanelli sta tremando. Porca miseria. Che inchiesta. Sono strapieni, ma non solo, anche i ristoranti. Quindi, vedi? Sono tutto, pieni, tutto non c'è posto. E quindi cosa vorresti dire con questo? Qual è il significato di questa inchiesta? Tutto è pieno, quindi? È come se definisce la crisi, no? È come se la crisi non ci fosse. Come se la crisi fosse, insomma, un dato di fatto, come se fosse un... Una cazzata, diciamolo. Come sì. Disse, giusto? Sì, come se si racconta una barzelletta, va. Brava. Hai scoperto sul campo, quindi, se non ho capito male, che la crisi non esiste? Secondo me non esiste, i ristoranti sono strapieni su Capri. Posso dire una cosa? Non c'è posto. Dillo, prego. Per posso alloggiare. Dire una... Allora, quello che dice Valentina, no? In realtà lo disse anche una persona qualche tempo fa, no? Mi pare che facesse. Signore, chi era? Ma no, il nome non me lo ricordo, ma mi pare anch'io. Che facesse il presidente del consiglio, no? Mi pare. Chi era? Valentina, tu ti ricordi il nome di chi disse questa cosa? Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Era lui, lo disse lui. Sì, quindi tu sei allineata con questo concetto, la crisi non esiste. Tutti gli economisti che parlano di disoccupazione, crisi, eccetera, dicono delle cazzate in fondo. Magari sì, la disoccupazione c'è, però tutto il resto no. Tutto il resto no, anche perché raccontiamo... Guarda, Valentina, no? Sai perché mi piace? Perché non parla a vanvera tanto per parlare. Lei... Devo dire di no. No, dico di no, è inutile. No, sto confermando. E ti dico anche il perché. Perché Valentina è la classica giornalista che va e tocca con mano, no? Giusto, Valentina? Dove sei stata ultimamente? Sono stata a Capri, l'isola di Capri. Non ho trovato posto per alloggiare perché era tutto pieno. Ristoranti com'erano? I ristoranti erano strapieni. Tutto pieno. Sì, con sti deficienti che parlano di crisi, sti cretini che parlano di crisi. Tutto pieno. Un posto... La Sardegna uguale. Non ne parliamo della Sardegna, Porto Cervo ormai non si trova... Mamma mia, Porto Cervo non si trova neanche un angolo per alloggiare, adesso è... Ormai tutti vanno a Porto Cervo, no? È tornata di moda Porto Cervo. Sì, pare sia tornata di moda, sì. Mamma mia. Quindi... Pensa, io avevo prenotato 2 settimane alla Dispoli, no? Sì. Ma pare che anche lì, no? Ma forse ho trovato un'offerta all inclusive a 400 euro, però ormai Porto Cervo è diventata invivibile, cioè il billionaire com'è? Pieno? È pienissimo, veramente pienissimo, stracolmi di tavoli, devo dire che non c'è un angolo. Devo dire che è bello perché se vai a Porto Cervo, in Costa Smeralda, no, troviamo un po' il nostro ambiente, no? Un ambiente VIP, giusto? VIP, giusto. Di grandissimi VIP, bella gente, giusto? Giusto, quindi è tornata di moda. Oh, sì. È tornata di moda la bella gente. Saremo solo io e Filippo saremo fuori posto lì a Porto Cervo, però insomma... Ma noi siamo degli sfigati, Umberto, infatti. Lì proprio... Però, no, se andiamo con Valentina ti posso assicurare che facciamo bella figura. Tu ci puoi dare una mano, grazie, Valentina? Io sono troppo contenta di questo complimento, sono troppo... Beh, ma penso di fare io la bella figura con voi, con due bellissimi... cosa? Ragazzi bellissimo. Come voi. No, mi piace Valentina. È simpatica, è brava, è molto intelligente. Questo anche, bellissimi molto... ragazzi. Senti, piaciuto. Caro Filippo, Valentina è anche un'amica di tantissimi VIP, no? Quindi magari sì? Ci può presentare qualcuno. Facciamo qualche nome. Chi conosci? Chi conosci? Valeria Marini. Ammazza. Ottimo, ottimo. Carlo Pignatelli. Ottimo, fantastico. Poi. E quindi Umberto Smaila. Umberto Smaila. Umberto... Ma scusami. Ma veramente potresti presentarci? Rudy Smaila. Rudy non la conosco, purtroppo. Ah, perché purtroppo? Ti piacerebbe? No, assolutamente. Diciamo che ha rovinato un po'... le atmosfere e i ritmi, quindi non mi piacerebbe conoscerla assolutamente. Beh, Ruby ha fatto un po' di casini, no? Dai. Sì, ha sconvolto un po' i ritmi. Che poi, francamente, ormai acqua passata e tutto, insomma, per fortuna è finito tutto quest'incubo del presidente. Sì, da tutto. Che poi, giustamente, poi io non ho capito, l'hanno pure... cioè, hanno fatto un'inchiesta, una cosa, quella una, arriva una, ti dice, sono la nipote... di Mubarak, sì. Cioè, mi sembra un po' ambigua come cosa, è vero? Sì, vero? Cioè, chi non ci avrebbe creduto? Chi non ci avrebbe creduto? Sì, i lineamenti sono più o meno sono quelli. Quelli sono quelli, è egiziana, sì. Insomma, si vede, ma lì è stato gentile, no, Berlusconi in quel caso? È stato... Certo, è sempre cordiale, gentile, ha accolto sempre tutti a casa sua, quindi passata anche questa. Ma tu sei stata mai a casa di Silvio? No, io non ho avuto mai il piacere, purtroppo. Che peccato. Allora, approfittiamo della radio, facciamo un appello. Di Silvio, invitami a casa tua. Approfitta che qui ti ascoltano tutti, potrebbe ascoltarti anche lui. Va bene. Aspetta, sì. Facciamo... Allora, concentrati, ti do 2 secondi. E adesso Andrea, che è bravissimo, dalla regia ti fa partire una base un po' romantica. Bene. Vai. Caro Presidente Silvio Berlusconi, io vorrei avere il piacere di stringerle la mano e di partecipare una giornata a casa sua. Una giornata a casa sua? Una giornata intera? Intera, sì. Vabbè, anche a cena? Come vuole. Vabbè, magari fare anche una cenetta romantica, una cenetta carina. No, quello lascio il posto alla fidanzata. Ah, perché dici si incazza la fidanzata, è giusto, sì, è meglio di no. È meglio di no. Valentina, non vorrei rischiare. Cos'è che ti affascina di Berlusconi? Il carisma. Beh, diciamo che tu... Ma tu hai avuto mai modo di conoscerlo, il presidente? Sì, certo, sì. Per stringergli la mano sicuramente. E com'è andata? Bene, tutto bene, sempre tanti bei complimenti. Che vi siete detti? Che ti diceva lui? Beh, sempre complimenti, basta. Il complimento che ti è rimasto più impresso? Lei è una giornalista? È una domanda questa. Ah, sì. No. E tu che hai detto? Beh, non lo ero, all'epoca non lo ero, no. Senti, allora facciamo così, per adesso il nostro tempo è scaduto. Sì? Ma ci lasci con una chicca dell'estate, con un gossip dell'estate? Sì, allora, un gossip dell'estate, credo che Fabrizio Corona si è innamorato di una nuova showgirl. Attenzione, ma sapresti anche dirci chi? Una certa Sofia, di nome, il cognome non lo conosco purtroppo. Attenzione. Lei è una bionda. E questo è un regalo in esclusiva per noi dei Fuori Posto? E qui esce la giornalista, sì, esatto. Che c'è lei. Grazie Valentina. Grazie. Giornalista di inchiesta. Allora facciamo così, Valentina. Li ho visti insieme prima di partire. Attenzione. Dove? Diccelo. Allora, fuori al Rizzi di Milano. Notizia nostra in esclusiva. Rizzi di Milano. Hai capito? Sti posti io e te manco ce li sogniamo, sì, col cannocchiale, Filippo, caro Filippo. Non andiamo alla Dispoli, andiamo. Senti, facciamo così, Valentina. Allora, sì. Visto che tu ormai sei una nostra amica, un'amica dei Fuori Posto, facciamo così. Per oggi il nostro tempo a disposizione è scaduto. E dico anche ahimè. Sì, che peccato. Però che peccato. Ci prometti che ci farai l'onore di ritornare ospite, no, di Radio 24 in esclusiva solo per noi? Con tanto piacere e con tanto onore. Che allora. Bello, grazie, che bello. Anche per oggi abbiamo finito. Ricordiamo, Valentina, la nostra pagina Facebook. I Fuori Posto, parola di Valentina Busiello. E noi ricordiamo anche la mail, che è ifuoriposto@radio24.it, oppure? Segreteria telefonica allo 02-46-524-182 o SMS su WhatsApp al 349-2386-666. Per oggi è tutto, buon bagno, buona cena e buona giornata. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui ai Fuori Posto, puntuali alle 10. Mi raccomando. Ciao a tutti, grazie.